stessa biblioteca si propone attraverso queste iniziative, questi incontri con l'autore, i dibattiti che organizziamo settimanalmente, di avvicinare, di far conoscere questa struttura e i suoi servizi, il suo patrimonio ad un pubblico sempre più ampio, anche per quello che cerchiamo di così diversificare la nostra offerta. Molti sono incontri di storia locale, altri con un taglio più geopolitico, però abbiamo anche molti spazi per la poesia, per la narrativa. E con particolare piacere questa sera salutiamo Italo Ghirigato, i cui libri sono presenti in questa biblioteca, perché anche la produzione precedente è ben documentata, catalogata e circola, testimoni. E questa sera con la sua novità, dal titolo accattivante, Amori clandestini. E saluto anche con piacere Patrizio Sindaco e Mara Daroit, le nostre voci. Ci accompagnano spesso con la loro professionalità nelle letture, nelle interpretazioni di poesie, di brani, di racconti. È una serata che vi auguro molto piacevole, ne sono sicura, abbiamo anche immagini, musica, e vi invito anche cordialmente a ritornare in questa biblioteca, perché la biblioteca è una struttura aperta che offre dei servizi gratuitamente, offre dei momenti per stare anche insieme, perché si sta percorrendo una strada di socializzazione in un momento così particolare che stiamo attraversando. Forse anche la cultura, anche lo stare insieme, anche il trovare delle occasioni nuove per conoscersi e per godere anche di certi messaggi, di certe comunicazioni che ci vengono fatti da altri, può essere un modo per oggi sono un po' ottimista, per sperare che anche questo momento passerà. Adesso permettetemi, ma siccome in questi giorni sto facendo un corso e si parla del momento, della contingenza e dei tagli e soldi che mancano, e quindi anche noi che siamo come una onlus, per cui non è che abbiamo delle entrate commerciali, dobbiamo un po' chiaramente fare sempre i conti su quello che è il benefit sociale, la ricaduta che un servizio così può dare sulla società. E allora quale può essere la ricaduta? Non solo di far circolare l'informazione, la cultura e dare occasione a chiunque di iniziare un percorso proprio, libero, e scegliersi una propria opinione attraverso i libri, che vengono così raccolti indistintamente, senza pregiudizi e senza scelte particolari, ma solo tecniche. Ma oggi come oggi mi dico sempre bene, allora adesso noi stiamo affrontando una terza guerra globale che non ha vittime, ma purtroppo è molto sanguinolenta, tra virgolette, in maniera virtuale a livello sociale, e forse è proprio anche in questo modo, cercando di farsi una cultura, farsi un'opinione, arricchirsi e incontrarsi, che possiamo superare questo momento senza troppi drammi, senza lasciarsi cadere in facile routine. Ecco, allora invito anche così a passare la parola, perché la biblioteca vive proprio anche di questo, nel piacere, nella possibilità di essere utile alle persone. Grazie. E cedo la parola a Italo Ghirigato. Grazie, ringrazio veramente la biblioteca per questa bella opportunità che mi dà, ringrazio voi presenti, coraggiosi. In genere quando si va a una presentazione di un libro ci si aspetta che l'autore parli innanzitutto di se stesso e di come ha prodotto questo libro, come gli è venuto in mente di scrivere questo libro, a cosa si è ispirato. Io invece non farò niente di tutto questo. Io ho voluto un po' esprimere in una forma non tradizionale questa presentazione del libro, nel senso che appunto adesso io spiego come svolgeremo questi nostri 50 minuti insieme, e poi mi metto a disposizione per domande intriganti, visto che il titolo è intrigante, mi metto a disposizione anche per qualsiasi tipo di domande. Però adesso procediamo in questo modo. Per ogni racconto, come vedete, il libro sono 6 racconti d'amore. Sono, come vedrete, 6 racconti completamente diversi l'uno dall'altro, con personaggi completamente diversi, in ambienti completamente diversi. Anche gli amori sono amori vissuti in modo completamente diverso e il concetto di clandestinità è il filo conduttore di questi amori. Ma anche qua il titolo è un po' fuorviante, volutamente, come sono fuorvianti quasi tutti i titoli anche stessi dei racconti. A me piace, questa è un po' anche la mia tecnica narrativa, condurre il lettore a pensarla in un certo modo, a farsi un certo schema, a pensare che la storia procede in un certo modo e poi si conclude in un certo modo e poi alla fine invece salta tutto quanto per aria. Allora, per questo procediamo in questo modo. Ogni racconto è presentato da un audiovisivo, quindi immagini, musiche, parole, che sintetizza l'essenza della trama, ma senza rivelarla tutta, assolutamente. Alla fine di ogni racconto poi ci saranno le nostre 3 voci, e soprattutto le loro bellissime voci, che interpreteranno anche lì stralci dei 6 racconti. Anche qua senza, mi dispiace per voi insomma, ma vedrete, insomma, sarà ancora più stimolante, forse almeno dalle presentazioni che abbiamo fatto più adesso, il vivere questa presentazione con degli interrogativi, con delle domande, con delle cose ancora che si vorrebbero scoprire, con l'idea di dire, ma sta storia poi alla fine com'è che va a finire? È ancora più bello, si vive emotivamente in modo più intenso. Ecco, quindi per ogni racconto un audiovisivo, le voci e poi appunto la serata si apre con eventuali interventi da parte vostra. Ok? Cominciamo? Grazie. È il racconto che dà il titolo al libro stesso, e non a caso. La storia si svolge in un paese di provincia, dove una mattina, sulla bacheca di fronte al sagrato della chiesa, appare una lista di coppie adultere, uomini e donne implicati in relazioni extraconiugali. Uno scandalo che finisce inevitabilmente sui giornali. Tresche vere? Uno scherzo di cattivo gusto? Calunnie? Sulla lista ci sono Elisa, una commessa trentenne molto attraente che ama truccarsi e vestirsi con gusto, ed Alex, un tipo magnetico, un artista del vetro. Come reagiscono i loro partner? Cosa succede tra loro? Che tipo di amore viene alla luce? Amori clandestini è un racconto emblematico per tutto il libro, perché rivela un concetto di clandestinità che ritroviamo anche nelle altre storie. Una clandestinità mai cercata, mai architettata, ma che offre ai protagonisti una condizione inaspettata per vivere sentimenti intensi e veri. Ah. momento. È vero? Dimmi solo se è vero. In quante famiglie del paese e tra quanti partner in quei giorni sarà rimbalzata una frase del genere dopo che era apparsa quella lista proprio nella bacheca sul sagrato della chiesa del paese? Storie di corna e misteri, aveva intitolato in prima pagina il quotidiano regionale, riportando la comparsa della lista vergata a mano in stampatello, contenente i nomi di una trentina di coppie clandestine, tutte persone note nel paese. Un elenco assolutamente trasversale, con i vari assortimenti non solamente eterosessuali, precisava il giornale. Un episodio che porterà a scompiglio e creerà ferite in un paese dove bene o male le persone si conoscono tutte fra loro, anche se si dovesse trattare solo di un'invenzione goliardica. Un gossip estivo, di infima qualità, aveva dichiarato il sindaco indignato, e che dimostra che al peggio non c'è mai fine e che, come si dice, la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Elisa e Alex si salutarono un po' intimiditi, emozionati, e il rivedersi sotto una luce nuova li rese particolarmente curiosi e attenti l'uno verso l'altro. Elisa era davvero bella, anche se l'alone dei lampioni sfumava i suoi contrasti. Le labbra rosse, i capelli e gli occhi neri, la pelle abbronzata e lucente, un vestitino a fiori trasparente. E lui, d'altra parte, era lì con il suo fascino particolare. Un magnetismo che non gli veniva da qualche aspetto del suo viso, pur dotato di due intensi occhi azzurri, ma dall'insieme di un suo modo di guardare, muoversi e parlare. Dalla piazza si spostarono subito verso una zona più tranquilla, scegliendo infine di fermarsi in un locale con dei tavolini all'aperto. Non affrontarono subito l'argomento, indugiando invece sul proprio lavoro, sulle proprie famiglie di origine, sui gusti in tema di locali pubblici, decidendo ben presto di darsi del tu. Poi ci fu un momento di pausa nella conversazione, dove però rimasero a guardarsi, a sorridersi e infine a sbottare insieme. Ma chi sarà stato? E soprattutto, perché noi due insieme? Già, una lista davvero strana, con delle informazioni davvero fondate a quanto pare. Ma noi? Cosa c'entriamo noi? Forse in tabaccheria qualcuno avrà notato come qualche volta... Forse in tabaccheria qualcuno avrà notato come qualche volta ti ho piantato gli occhi addosso. Allora sei stato tu, solo per provocare questo nostro incontro. Risero e lì sentirono il click dentro di loro, come lo scatto di un interruttore che ora mostrava quella vicenda sotto tutt'altra luce, risolvendo d'un colpo le loro angustie e l'isolamento vissuti nei giorni precedenti. Ok. Un amore finito sulle strisce azzurre sembra un racconto senza sorprese, perché pare cominciare dalla fine, e invece si rivelerà quello più spiazzante di tutti. L'amore qui nasce in uno dei luoghi più fertili di cotte stagionali, la costa romagnola. I protagonisti però non sono giovani in erba, ma persone in età matura, e la loro storia non durerà solo il tempo di una stagione. Ispirato ad un fatto di cronaca vero, un signore di 68 anni travolto e ucciso sulle strisce belle, la storia parte interrogandosi su quel mazzo di fiori che l'uomo lascia sull'asfalto e che si scopre non essere destinato alla moglie. Un giovane giornalista indaga e poco lontano dalle zebre trova il biglietto che accompagnava i fiori. Con te la mia vita quotidiana si illumina ogni volta che ti penso. Ti amo. In questo racconto emerge quanto un amore può essere tanto forte quanto fragile, anche tra persone in età matura. Il giornalista cerca il biglietto che era nel mazzo dei fiori e trova una piccola busta. Era chiusa, ma con i lembi non incollati e con scritto un nome a cui era indirizzata: a Maria. Ci pensò un paio di volte prima di aprirla, sentendo di usurpare vergognosamente un'intimità altrui. Poi riuscì a trovare una soluzione al suo senso di colpa, ripromettendosi di non usare il contenuto del biglietto a fini giornalistici. Con te la mia vita quotidiana si illumina ogni volta che ti penso. Ti amo. Si rendeva moralmente conto di dover recapitare quel messaggio alla destinataria e per un attimo si pentì di averlo tra le mani, ma alla fine si avviò verso l'indirizzo che aveva rintracciato sull'elenco telefonico. Gli aprì una donna che per la sua giovane età non poteva essere la vedova. Lui si presentò, esprimendo con sincerità tutta la sua costernazione per l'accaduto e motivando la sua visita con il desiderio di scrivere qualcosa che ricordasse il profilo della persona deceduta e, con loro permesso, il significato di quel mazzo di fiori. La donna, a sua volta, si presentò come la figlia. Lo ringraziò per l'interessamento, ma sminuì l'importanza di scrivere un articolo sul padre. Era un pensionato, ancora molto attivo. Gestiva un'attività commerciale con mio fratello, ma in fondo conduceva una vita tranquilla. Non ci sono cose particolari da raccontare. Ma i fiori erano per un anniversario? No, è stata una sorpresa anche per noi. Un gesto carino verso mia madre, forse per scusarsi di un litigio. A volte succedeva. Immagino che la signora Maria, sua madre voglio dire, non sia in grado di... No, davvero, è in condizioni penose. Comunque mia madre non si chiama Maria. Ah, mi scusi. Sorpreso, spiazzato, capì che il biglietto che con tanta pena stava per consegnare doveva rimanere nella sua tasca. E accomiatandosi dalla donna capì anche, responsabilmente, che quel suo sottotitolo "A terra un mazzo di fiori" sarebbe proprio rimasto senza seguito. Di questo racconto è soprattutto il luogo in cui è ambientato, un vecchio monastero francescano in Provenza. Un monastero immerso in una macchia mediterranea ricca di erbe selvatiche e di piante fragranti, tipiche di questa regione francese. Trasformato in un centro per attività formative e di studio, gestito da suore laiche, è scelto come luogo di ritiro per esercizi di yoga da un gruppo di italiani, 4 uomini e 21 donne, compresa l'insegnante. Il protagonista della storia è Fabio, un quarantenne che da lì guarda alla sua vita intensa di lavoro come ad un formicolio lontano. Proprio mentre si abbandona al senso di pace che gli offrono quel posto e gli esercizi di yoga, una mattina riceve un messaggio d'amore da una donna, che però non si rivela. Comincia così la sua indagine, condotta in modo discreto, clandestino. Come recita lo stesso titolo, la tensione tra anima e corpo, tra fisicità e spiritualità, è il filo conduttore che percorre tutto il racconto. Lo si ritrova nella stessa pratica dello yoga. O nel contrasto tra il rumore della lontana vita quotidiana e il silenzio di quel luogo. E naturalmente tra la sensualità dell'amore e le sue parti più impalpabili, a volte indecifrabili, ma altrettanto coinvolgenti. Un racconto ricco di contrappunti emotivi, di sentimenti in conflitto, di sorprese. Accadde la terza mattina dal loro arrivo all'abbazia. Aprendo la porta della sua stanza, o meglio della sua cella, per recarsi all'appuntamento con gli altri sulla terrazza, vide posato sul pavimento, proprio sulla soglia, un fiore rosa. Lo raccolse e per un po' si fermò sul posto, rigirandoselo fra le dita e osservandolo. Era un fiore di azalea, ancora fresco. Si guardò attorno. Alla sua destra vide solo l'oscurità di un corridoio che si infittiva verso il fondo, e così pure alla sua sinistra. E non c'era l'ombra di una pianta di azalea. Dalla rampa delle scale davanti a sé non saliva neppure l'eco di un piccolo rumore. Un fiore, perduto da qualcuno e rotolato per caso davanti alla mia porta, pensò. Ma pur sempre un segno. E un segno va conservato. Stava per richiudere la porta quando decise di non portare con sé il fiore, ma di lasciarlo in camera. Al fiore si ritrovò a pensare la mattina dopo, quando, uscendo dalla sua camera, vide di nuovo un ciuffo rosa di azalea posato davanti alla sua porta. Questa volta fu davvero sorpreso. Quel secondo fiore schiuse un'altra porta davanti a lui, con uno scenario nuovo e inatteso. Da quel momento in poi i suoi occhi non furono più gli stessi, costretto com'era ad osservare con più attenzione e a reinterpretare ogni piccola cosa che accadesse intorno a sé. Una sensazione piacevole, decisamente piacevole, ma anche intrigante, che andava ad increspare le acque chete del suo stato d'animo in quel posto di pace. Giusy era una ragazza molto ispirata e creativa. Nella macchia selvatica dell'abbazia trovava mille spunti per le sue invenzioni artistiche, ma la sua passione andava soprattutto ai fiori e alle piante aromatiche di cui era ricca la terra tutto intorno. Li raccoglieva, li portava con sé, infilandoseli nei capelli, appoggiandoli come decoro sul suo tappetino di esercizi, portandoli a tavola immersi in un bicchiere d'acqua, oppure li riuniva in particolari composizioni, incollandoli su dei cartoncini e aggiungendovi dei disegni, regalandoli poi in giro. Fabio spese volentieri parole di ammirazione e di incoraggiamento per il suo estro e per le sue realizzazioni, di fronte alle quali però lei si mostrò più diffidente che lusingata. Me lo dici per carineria, non perché ci credi veramente. Ma perché dici questo? Voi uomini non apprezzate queste cose, le trovate frivole e pensate che si possa tranquillamente farne a meno. Beh, diciamo che non è proprio un campo di interesse maschile, ma non generalizzerei. Una volta raccoglievo piante e animaletti anch'io e li disegnavo. Avevo anche un certo talento. E poi? E poi purtroppo l'impegno con lo studio, lo sport, il lavoro. Vedi, non l'hai ritenuto più una cosa importante. Per voi maschi è importante il gioco competitivo con gli altri, la relazione con la natura o con ciò che è bello o è fantasioso. No. Sì, sì, hai ragione. Bisognerebbe recuperare un maggiore equilibrio. Se ti regalassi un fiore, lo terresti in mano di fronte a tutti. E perché dovresti regalarmi un fiore? Lo vedi che sei un maschietto. Perché devi a tutti i costi cercare una logica? Non ti basta intanto goderti il piacere di un gesto carino? Questo seminario si sta rivelando un'occasione per fare ancora dei passi in avanti. Si sente, Fabio. Si sente che ci pensi a queste cose. Ora sembro un po' drastica, ma io ti avevo già osservato e apprezzato. Allora, il fiore lo regali lo stesso? Fa conto che te lo abbia già regalato. E mentre Fabio rimase lì invischiato in questa frase, Giusy si alzò per andare in camera sua. Il mistero della foto comincia come un giallo e finisce come un racconto d'amore. Diego, un giovane forestale ancora fresco di laurea, dopo aver partecipato ad una cerimonia funebre, incontra lungo i vialetti del cimitero una donna che, poco dopo, gli sembra di riconoscere in una foto sulla lapide di una tomba. Una sua impressione, o è proprio così? Un fantasma in carne e ossa, o solo nella sua testa? Sconvolto e incuriosito, cerca in tutti i modi di risolvere il dilemma, rincorrendo subito la donna, che però scompare. Sarà solo il caso ad aiutarlo, scoprendo una tragedia umana con cui la voglia di vivere della sua giovinetta si trova a fare i conti. il corso di questa storia è una piccola, fortuita coincidenza che però aggancerà l'attenzione di una donna sull'orlo di un baratro. La clandestinità qui si veste di mistero, di desideri trattenuti, di sentimenti nascosti, di paure d'amare dopo esperienze d'amore sofferte fino all'estremo. Una bella giornata di primavera. Il sole scintillava sulle zone del ghiaino bianco lasciate libere dall'ombra dei pini e dei cipressi. Un intrigo di cinguettii e onde odorose di bosso avvolgeva piante, cespugli e tombe. Sul vialetto c'era solo una donna, ferma davanti a una grande lapide, una figura esile, vestita in modo leggero, con una pelle chiara come il latte. Quando Diego le si avvicinò, lei si voltò e ambedue accennarono a un saluto, anche se non si conoscevano, come succede sui sentieri di montagna. Ebbe l'impressione di un viso sconsolato e spaventato. Poi lui proseguì fino al muro perimetrale del cimitero, che faceva anche da contenitore di piccoli tumuli ceduti in affitto. La sua fu una sosta breve, il tempo di un saluto un po' evanescente al nonno, di cui non ricordava quasi nulla, e di un abbraccio virtuale alla nonna, di cui aveva goduto la grande affettuosità e bontà. Tornando sui suoi passi, ripercorse il vialetto, notando che la donna di prima non c'era più. All'altezza della lapide, che per la sua grandezza e per le persone commemorate si rivelò essere una tomba di famiglia, non riuscì a trattenere la sua curiosità e volle darle un'occhiata. Lo sguardo andò subito sulla destra, sulle scritte più in basso, con i ritratti delle persone e con le date più recenti. Ma si bloccò di colpo su una foto, l'ultima della serie, quella che chiudeva il mesto elenco. Il volto sulla foto era quello della donna che era stata lì poco prima. Quella almeno fu la sua prima certissima impressione. L'aveva vista solo per qualche secondo, era vero, ma per una frazione piena di quei secondi, proprio in quell'accenno di saluto, su quel sentiero popolato di uccelli chiassosi e di anime silenziose, aveva indugiato sul suo volto, abbastanza da imprimerselo nella sua memoria visiva. Era lei! Occupa solo 4 delle 144 pagine del libro, il tempo di una passione consumata in treno, nel tratto tra Bologna e Verona. Una storia inconsueta o una storia che si ripete e non manca mai nella biografia di un viaggiatore o di una viaggiatrice, se non altro nella loro fantasia? Fatto sta che è davvero straordinario, in un tempo così breve, il passaggio dalla completa estraneità alla perfetta intesa amorosa tra i due protagonisti del racconto. Lei ha un viso snello, una bocca sensuale e del trucco leggero, capelli color rame. sale alla stazione di Bologna e avvolge e travolge il protagonista maschile di questo racconto. Ci capivamo, ed ogni volta era una fusione comunicativa. Mi piaceva e glielo dicevo apertamente. Lo stesso faceva lei, senza remore, sempre con serenità, con tenerezza, con stile, con il linguaggio del suo corpo flessuoso e bello da guardare. L'amore sembra appartenere al vento, un vento fresco, mai violento, ma forte quanto basta per arrivare d'improvviso e puntuale, a portare movimento e continui cambiamenti. Un amore che è e resterà sempre clandestino. Non so cosa darei per poterla rivedere anche solo un attimo, per confondermi nei suoi occhi, per vivere il suo modo di accogliermi. Sento vibrazioni profonde che non mi lasciano, ma anche il dolore stordente della perdita. Ora il treno è ripartito, lasciando la stazione di Verona dove lei è scesa. Andandosene, ha chiuso con cura la porta dello scompartimento, fissando la maniglia, poi scostando gli occhi verso di me. La carezza di una piuma, prima del volare via, chissà dove. È notte fonda, un'acqua fredda e rabbiosa dilava il finestrino. Solo poche stazioni fa ci eravamo fermati un momento nel denso buio padano. Era immobile. Non un rumore veniva dal corridoio, solo il ticchettio della pioggia sul tetto della vettura e il battito dilatato del mio cuore, mentre la guardavo e lei mi guardava. Invece è il racconto più lungo, come del resto, lungo e tormentato, è il percorso vissuto dal protagonista dibattuto tra l'amore per due donne. Sembrerebbe l'eterno istinto maschile per la bigamia, ma non è così. Non è solo il conflitto amoroso quello che vivono i personaggi di questa storia, ma anche una continua tensione tra la prigionia e la libertà. La libertà da abitudini e da rituali, da facili formulette di vita, da recite di ruoli familiari o sessuali e da paura del cambiamento. Quanto pesa l'amore di Flora per la propria figlia nell'escludere l'amore per un altro uomo dopo la dura esperienza del divorzio? Fino a che punto non si rivela un alibi per non fare una scelta importante? E in attesa che Flora maturi una decisione, fino a che punto Marco, pur innamorato di lei, deve escludere l'amore per Lorena, un'altra donna entrata felpatamente nella sua vita? Luci ed ombre, positività e negatività, rotture e nuovi inizi si alternano rapidamente o convivono nelle stesse situazioni. È l'amore vissuto oggi che non si lascia ingabbiare, che ha bisogno di continue prove. Anche qui la clandestinità accompagna costantemente i movimenti dei protagonisti, ma è una clandestinità dalla trasparenza abbagliante. Mano a mano che Marco e Flora procedevano scalzi, assaporando la sabbia vellutata sotto i piedi nudi, davanti a loro si dileguavano ombre di grossi granchi, zampettando vorticosamente in tutte le direzioni, come se sgombrassero il percorso appositamente per loro. Marco era consapevole del momento magico che stava vivendo, la prima vacanza con Flora, e la prima volta nell'Africa equatoriale, in Kenya, in pieno inverno. E quel luogo così carico di suggestione. Il cielo ricolmo di stelle luccicanti, lo sciabordio calmo delle onde, i piccolii e i singhiozzi intermittenti degli uccelli sparsi tra la folta vegetazione, l'odore denso e caldo dell'aria tropicale, odore di terra e di piante grasse, odore di sole che anche di notte traspirava da ogni cosa. Marco si voltò verso Flora e la trattenne dolcemente per fermarsi insieme a godere quel momento, ma si accorse che non stavano vivendo le stesse sensazioni. Beh, che c'è? Mia figlia. Sto pensando a mia figlia, a casa, poverina. Devo telefonare, devo sentire come sta. La voce angosciata, la mano che lascia bruscamente quella di Marco, tutto il corpo che si volta nella direzione opposta. Sua figlia Alessia aveva 9 anni ed era una bambina sveglia, di carattere, ma anche molto legata alla madre, specialmente dopo che il divorzio aveva visto il progressivo allontanamento di suo padre. In quei giorni Alessia stava a casa con la nonna, una donna forte, una pensionata indaffarata che continuava a lavorare a casa come sarta, ma anche capace di dare a sua nipote l'attenzione e l'affetto di cui aveva bisogno. Alessia era in buone mani. Flora, tua figlia l'ha sentita questa mattina. Sta bene, non hai motivo di preoccuparti. Ora goditi questo spettacolo, guarda questo scenario. È un momento unico, viviamolo con tutto noi stessi. Rimaniamo qui ancora qualche minuto, ti prego. Fermati pure, se vuoi. Io vado a telefonare. Va bene, allora ti aspetto. Vedrai, sarà tutto a posto. Ritornerai serena e ci godremo ancora questa serata. Ma lei non ritornò. Marco la ritrovò in stanza, sul letto, mezza addormentata. Allora? Tutto bene, stava cenando con mia madre. E come mai non sei ritornata sulla spiaggia? Ero stanca. La mattina dopo, Marco si svegliò sentendo alle sue spalle il corpo di Flora aderire a cucchiaio al suo, le sue labbra seminare piccoli baci sul collo, le sue braccia stringerlo a sé. Rimasero così per un po', abituandosi gradualmente alla luminosità, ascoltando strani versi di uccelli, grida lontani di scimmie e qualche voce astutita. Ecco, sono a vostra disposizione. Ringrazio ancora Mara e Patrizio veramente per la loro bellissima interpretazione. Dove ti sei ispirato? Ecco. Interpreto la curiosità collettiva. Ma qui ci sono tre racconti che partono da fatti di cronaca veri, perché il, ad esempio il secondo racconto, Un amore finito sulle strisce a zebre, parte da un fatto di cronaca successo in un paese qui vicino che non nomino ma molti sanno, quindi un fatto vero, nel senso che veramente è successo che sulla bacheca della chiesa davanti al sagrato sono stato un giorno, per pochissimo tempo, non so, forse minuti, forse qualche ora, è apparsa questa lista di coppie adultere. Pochi hanno visto questa lista e pochi hanno potuto anche verificare quanto fosse vera, non vera, eccetera, eccetera. Da lì è nata poi la mia fantasia, con anche queste due persone che non c'entrano niente, ma si sono ritrovate lì. Come andrà a finire? L'altro fatto di cronaca è la persona di 68 anni travolta sulle strisce zebre. Come avete visto, proprio le fotografie sono state riprese dai giornali, proprio dall'Alto Adige, quindi è successo veramente anche lì. Ma quel mazzo di fiori mi intrigava, ecco, da lì è partita la mia ispirazione, e questo appunto, per chi anche l'ha letto, sa che è il racconto un po' dal punto di vista della trama spiazzante, perché si pensa che ci sia un certo tipo di storia, invece non è quella, insomma. Poi il terzo fatto di cronaca è il mistero della foto. Incredibile, ma davvero è successo a Rovereto che una donna abbia messo la propria foto sulla tomba di famiglia mentre lei era viva, per una serie di disgrazie che sono successe, disgrazie anche peggiori di quelle che racconto io nel racconto, appunto. Però anche lì, diciamo, tendenzialmente io sono una persona positiva, e quindi di fronte a una tragedia così profonda, così disastrosa sul piano umano, proprio ho sentito la voglia di costruire un racconto con una donna che ne esca da una situazione del genere, ovviamente grazie anche all'intervento di un uomo, in questo caso tra l'altro di una persona più giovane, e quindi un po' sempre dando fiducia al giovane, pensando al giovane, perché c'è una differenza di età di 10 anni tra i due personaggi, pensando che il giovane abbia appunto la voglia, l'energia, la speranza del futuro, e quindi rappresenta proprio anche simbolicamente la gioventù, e che vince invece rispetto a qualunque tragedia che possa succedere sul piano umano. Ecco, poi gli altri sono molto fantasiosi, e anche c'è un filone autobiografico, naturalmente, questo sempre, insomma, sempre. C'è sempre, sì. Diciamo, quello a cui sono particolarmente poi affezionato è l'ultimo, perché volevo veramente raccontare il vero tormento di un uomo innamorato di due donne. Come in genere appunto si pensa, ah, l'uomo, ah, furbastro, innamorato di due donne, no? Vuole stare con piedi da una parte, con l'altro piede una scarpa da una parte, scarpa da là. Non è così, insomma, ci sono oggi... Oggi di fronte al 40% dei matrimoni che si sciolgono, significa inevitabilmente che le persone, ovvio che non tutti i matrimoni finiscono perché uno dei due si innamora di un'altra persona, però sicuramente io penso che questo sia un fatto anche maggioritario, cioè forse magari non parte, la situazione critica non parte dal fatto che una dei due partner si innamora di un terzo, parte da situazioni interne, però incontrando una terza persona ha più coraggio poi di fare determinate scelte e anche di sciogliere. Ecco, questa fase qua può essere davvero una fase vissuta chissà da quante persone oggi, come un vero tormento. Essere innamorati contemporaneamente di una donna a cui si sente veramente legati anche da una storia, da un percorso vissuto assieme, e si può immaginare, insomma, sono storie, quando si parla di uomo e di donna insieme, si parla di storie molto intime, no? Molto profonde, molto coinvolgenti, vitali, e però appunto d'altra parte ci sono anche delle contraddizioni, ci sono dei conflitti, si incontra un'altra donna e anche lì si rivive una situazione altrettanto intima. Le scelte non sono facili, e appunto ho voluto sfidarmi come narratore, perché già pensare di scrivere un qualcosa sull'amore non è così facile, ma poi scrivere alcuni temi senza cadere nella banalità, insomma, nelle cose che si dicono sempre, non è semplice, ma io ho tentato. Poi c'è qualcuno che l'ha letto, anche il libro eventualmente, però insomma vedo anche le recensioni che sono uscite, tra l'altro fatte quasi tutte da donne, che sono, apprezzano questo lavoro. Credo che io ho letto il libro, mi è piaciuto perché ha una sua leggerezza, ma anche appunto, diciamo, un'elaborazione, non è scontato, anzi poi ci sono anche questi epiloghi completamente inattesi che lo rendono vivace e insomma incuriosisce molto. Quasi una suspense da giallo in 5-6 pagine, così trovi coinvolto. E poi anche questa clandestinità che viene dipinta però in una maniera meno, come posso dire, pruriginosa. Esatto. No? E viene tolto questo aspetto pruriginoso doloso, ma viene così restituita a una quotidianità che può capitare a chiunque, e poi ognuno è libero di casellarla nella propria vita come crede, perché siamo abituati dalle cronache di questo periodo a conoscere degli aspetti molto tucci, sì, che vanno dallo stalking oppure addirittura alla soppressione, esatto, da parte del marito o della moglie, prevalentemente purtroppo. Ma per me nella cronaca di oggi c'è, ecco, proprio la pubblicità anti-clandestino. Anti-clandestino, dove la clandestinità non è un caso fortuito e che magari non si risolve, nel senso che non si consuma ma rimane congelata e ognuno poi va comunque per la propria strada. E viene vissuta e viene così propinata in questo momento in una maniera molto volgare e anche pericolosa, insomma, perché se penso a certi fatti di cronaca con un marito che ha una vita sì molto volgare, non so, questo che ha ammazzato la moglie nel parco l'anno scorso e poi appunto uccide la moglie, diviega o disconosce anche l'amante. Cioè, vuol dire, non è quello che c'è. Sì, ecco. Invece penso c'è anche una gentilezza e non una materialità in certi incontri che poi non cambiano la tua vita, ma che forse la possono arricchire senza compromettere, senza... Sì, mi piace molto che tu abbia colto questo fatto, sì, perché proprio questo è il vero messaggio sulla clandestinità che mi piace dare in questo libro, no? Il titolo, diciamo, è intrigante per i motivi che abbiamo detto prima, proprio perché corrisponde a questa mia tecnica narrativa, quella di intrigare con titoli che fanno pensare a delle cose e invece... ma ovviamente anche per problemi editoriali, perché bisogna sempre mettere un titolo intrigante, altrimenti non è facile vendere, insomma. Dietro appunto c'è questo fatto, una clandestinità intesa, come dico anche in questi spot, no? Intesa come in fondo intesa come una clandestinità che abbiamo tutti quanti noi. Cioè, tutti quanti noi, specialmente noi maschi, facciamo una gran fatica a esprimere sentimenti d'amore in modo esplicito. E spesso, no? Nella vita, nella nostra vita, direi, è da domandarsi: ma quante cose ci teniamo dentro? Che sentiamo? Che sentiamo? E quante cose riveliamo, le diciamo? Dire a una donna, dire anche alla propria moglie dopo 20 anni che sei insieme: ti amo veramente, ti voglio un bene della Madonna. Cioè, dire proprio certi sentimenti che sono appunto sentimenti belli, sentimenti puri. In fondo, ecco, io penso che con un tasso più o meno alto di clandestinità nei sentimenti viviamo tutti e ce li portiamo nella tomba. Sono convinto di questo. E qui poi appunto c'è anche il finale che finisce con dicendo una clandestinità abbagliante, nel senso che appunto, ecco, in questo caso il conflitto dell'uomo tra due donne non è un conflitto nascosto, è un conflitto che si sa, vissuto alla luce del sole, lo si sa, i protagonisti vivono questo fatto. Già a volte è vissuto tra madre e moglie, cioè sono già le due donne della vita, esatto, di un uomo che creano il problema, no? Esatto. Sì, sì. La scoccia. E poi sei consapevolmente la nuova paura di questa rivalità, perché in fin dei conti il figlio era nel suo grembo. In pratica, adesso non voglio essere blasfema, però il figlio era entrato nel corpo della madre prima di quello della moglie. E questo è una cosa, legame primordiale. Noi riusciamo a capire e a perdonare questo attaccamento, forse specialmente nei maschi con la mamma e la mamma nel maschio, se noi diciamo grazie a questa donna che ha partorito il mio uomo della mia vita, ecco. E per questo bisognerebbe mai dire a suocera sempre la mamma di Paolo, la mamma nei miei confronti, la mamma di Gianni. Ecco, io riguardo questo ho proprio scritto una poesia parlando della mamma di Gianni, perché è poco da fare, il suo cuore è abbattuto prima per noi vicino a quello di sua madre. I battiti sono quelli, perciò come possiamo pensare, anzi non può essere un bravo marito un marito che disdegna la madre, anzi noi dobbiamo essere orgogliosi. Io ho avuto un marito che ha passato un'infanzia molto difficile, non per colpa di sua madre, c'è anche la colpa della madre, ma lui è nato nel 43, c'è una storia, sarebbe un libro veramente. Lui ha avuto anche dei momenti di allontanamento con la madre. Io, dal momento che posso mettere a conoscenza, solo perché non ho raccontato lui queste cose, avrei potuto dire: ma una madre? Invece io l'ho sempre detto: tu fammilo, perché mi racconti queste cose, e io l'ho sempre difesa per l'epoca che ha passato. È una storia anche questa, c'è amore, c'è odio, c'è distanza, ci sono avvicinamenti, è una cosa anche questa, proprio un amore si può dire quasi clandestino per entrambi. Bellissimo. Però bisogna, io ho passato momenti tremendi, perché io alle volte dicevo: ma come, tu gli vuoi più bene manifestare il desiderio di vedere sua mamma? Alle volte lo vedevo che, e dicevo: ma come è possibile? Come è possibile? E dopo l'ho capito, e questo veramente l'ha tenuto, ci siamo tenuti anche più vicini. Perciò amore clandestini. Anche nella purezza, esatto. Sì, esatto. Esatto. Esatto. così come adulterio in treno, ho incontrato uomini e donne che hanno letto il brevissimo ma intenso racconto e mi hanno detto che hanno vissuto la stessa esperienza, però non l'hanno raccontata. Comunque non è. E non è quella che magari chi non l'ha letto pensa a certe cose, ma non è quello che pensate. Prego. Io volevo dire che questa presentazione mi è piaciuta molto. Grazie. E senz'altro suscita la voglia di leggere. Di cooperare. Però volevo finire una piccola cattiveria. Però mi preoccupa. Sì. Lei fa molto spesso la tratta a Bologna, vero? In effetti lavoro molto a Bologna, quindi esorabilmente. Voleva mettere la pulce nell'orecchio a qualcuno. Diciamo così. Bello. Gli attori cambiano. Grazie. Grazie, complimenti anche per la presentazione. Allora, ci hai fatto venire veramente la voglia di leggere il libro, a questo punto. Penso proprio di sì. Va bene, grazie a tutti. Ciao Anna, ciao, fai un racconto. Sì. Comunque intanto mi fa segno, voglio scrivere. Ma tanto mi voglio scrivere, perché ti dicevo, le storie, le cose quando mi fanno ricordo, sarebbero episodi della mia vita per contadini. E ho raccontato così episodi, mio nipote, la più grande, che era sempre molto interessata della moralità, di cosa. Cioè io voleva le storie, voleva le mie storie, aveva supremo, e poi veramente anche la storia non l'ha vissuta, dall'interno, scriverla, sarebbe, cioè lui non vorrebbe sicuramente, perché sarebbe una cosa troppo, sarebbe leggerita, cambiare, cambi come ho fatto io, ovviamente. Imparare a scrivere e senza offendere la persona, poteva riportare delle parti. Quanto viene? Va bene. 12 euro. Intanto continui. Grazie. Ciao. Comunque sei sempre disponibile. Io vedo che te sei molto libero, perché anche lì fatti diversi corsi. Ma scrivi anche, no? No, io sono quella che scrive ancora solo. Ma sono solo l'elenco telefonico. Anzi, te lo vorrei sapere poi. Come no? Certo. Arrivederci. Buonasera. Complimenti. Alla prossima, grazie. A voi. Se c'è qualcosa che non può dire, se non va bene. Voglio approfondire un po', l'anno scorso l'ho fatto con l'inglese. A Dublino? E adesso c'è tutto il mondo che, cioè, nel senso, che ho completamente tante mete. Anche, però, purissimo, guarda, vivere sul posto, poi di Sicilia consente di entrare proprio nello spirito del posto, no? E quindi ho detto, adesso ci sono tante altre belle mete. Che il tedesco purtroppo lo conosco già, se no mi piacerebbe andare anche due settimane a Berlino. Madrid mi suona bene. Sugli Alpini, sì, la nostra prima anche se quest'anno è una serie di cavoli con tutto il sistema. Adesso è il 19, se non sbaglio. Sì, 17. Non la vedo una grande annata. Abbiamo anticipato. Sangue e lacrime. Un po' con la casa, quindi dovevamo risentirne un po'. Il figlio è sposato? Ma no, però no. Sì. quindi. Però dai, se non è stavolta, in autunno non fare una bella serata di jazz, un tributo alle donne del jazz, alla leggera. Perfetto, grazie, una buona serata. Da qui a ottobre. Se vedi arrivare una cosa, no, te lo anticipo, magari lo rimetti assieme e dici, ah, questo è famoso. Perché in effetti vengono spesso anche da Merano, non è che non vengono, anche perché tu sei già come comodo perché arrivi lì in due minuti dall'autostrada, c'è il parcheggio e c'è anche una brava fotografa che viene in campo di Merano, la conosci, la Nita Schizzoli. Sono una personalmente mi piace. E quindi così, intanto passiamo gli stati.